788. Mostarda all'uso toscano. Uva dolce un terzo nera e due terzi bianca, oppure tutta bianca, come io la preferisco, chilogrammi 2. L'uva ammostatela come fareste pel vino e dopo un giorno o due, quando avrà alzato, spremetene il mosto. Mele rose o rainette, chilogrammi 1, 2 pere grosse, vino bianco, meglio vin santo, grammi 240, cedro candito, grammi 120, senapa bianca in polvere, grammi 40, le mele e le pere, sbucciatele, tagliatele a fette sottili, poi mettetele al fuoco col detto vino e quando l'avranno tirato tutto, versate il mosto. Rimestate spesso e quando il composto sarà condensato alquanto più della conserva di frutta, lasciatelo freddare ed aggiungete la senapa, sciolta prima con un poco di vino ben caldo e il candito in minuti pezzetti. Conservatela in vasetti con sopra un sottil velo di cannella in polvere. La senapa, per uso di tavola, eccita l'appetito e favorisce la digestione.